C'è una strana notizia sul Corriere della Sera di oggi, due colonne doppia giustezza taglio basso a pagina 11. L'Olanda rompe le dighe, le terre restituite al mare. E sotto questo titolo c'è un articolo da cui sembra doversi evincere che l'industrioso popolo dei Paesi Bassi ha deciso appunto di rompere, citazione, di rompere le dighe e restituire la terra al mare. Lungo la costa sud di Amsterdam, laddove i paesi sono davvero bassi, bulldozer e scavatrici sono già all'opera. È la vendetta del mare e dei fiumi. Per secoli costretti a subire le manipolazioni di uomini diligenti, ora presentano il conto e dimostrano che i costi non sono più sostenibili. I costi naturali, innanzitutto, l'impiego di sostanze chimiche e la distruzione programmata del paesaggio hanno fatto scomparire molte specie vegetali e animali. Dalla cicogna, a lungo simbolo nazionale, alla lontra, il cui ultimo esemplare è stato travolto da un'auto 5 anni fa. Anche la margherita è a rischio. Ci siamo trasformati in un grande parco naturale, dove ogni centimetro quadrato è canalizzato, fertilizzato, coltivato, pavimentato, spiega un esperto. La nostra diligenza ci sta soffocando. Ora, non so se l'abbiate notato, ma l'articoletto, così come ve l'ho letto io, si struttura secondo uno strano decalage. Dall'iniziale immagine apocalittica della rottura delle dighe e del rientro del mare nelle grandi pianure da cui è stato a suo tempo espulso, si ricade nella più normale e un tantino melensa lamentazione sul destino delle specie a rischio. Sì, con l'aggiunta della margherita, che fa un po' più impressione della lontra, ma insomma. E in effetti, se si arriva alla fine dell'articolo, noiosissimo, la notizia vera e propria non sembra più essere quella annunciata dal titolo, perché l'articolo conclude che il governo ha deciso di comprare migliaia di ettari di terreno per bloccare il declino del paesaggio olandese. Approvato nel 1990, il piano master per la natura è entrato nella sua fase iniziale. Insomma, i bulldozer sono all'opera per far sì, citazione, che la grande pianura strappata alle acque in una lotta millenaria si prepari a ritornare al ritorno della foresta alluvionale completa. Io non so cosa sia una foresta alluvionale completa, suppongo che sia completa di cicogne, lontre e margherite, ma so senz'altro che sott'acqua neanche in Olanda quelle bestie non vivono. Insomma, una notizia di poca importanza nobilitata con un titolo che fa impressione, un malvezzo giornalistico sul quale non ci interessa assolutamente intrattenervi stasera, perché al di là del malvezzo giornalistico io lettore mi sento stranamente toccato, non so cosa dirvi, ci sono restato un po' lì, e se la notizia fosse stata davvero quella, io non so voi, ma a me la vicenda degli olandesi in lotta contro il mare, del lungo e paziente lavoro per strappare iugero dopo iugero alla terra coltivabile al mare in fecondo e prolifero sboglio, l'ho sempre vista, mi è sempre stata presentata come una specie di mito ipico popolare, l'ho sempre vissuta come qualcosa di eroico, come... mi ha sempre preso, come si dice, no? Era un pezzo forte di tutti i sussidiari che avevo le elementari, in prima, in seconda, in terza, i Paesi Bassi, perché ci sono le dighe, no? E raggiungeva il culmine epico con la storia dell'intrepido ragazzino che di notte col dito chiudeva e teneva chiuso per tutta la notte il buco nella diga, salvando le campagne in attesa che arrivassero i soccorsi per rafforzare gli argini pericolanti. Adesso la storia ha fatto progressi, la cultura è cambiata, l'Olanda non è più il paese dei tulipani, adesso si occupano soprattutto di registratori digitali, i nuovi valori hanno preso il posto dei vecchi, l'opera titanica di quegli operosi abitanti è stata declassata all'insensato tentativo di piegare la natura ai propri fini perché i costi ormai non sono più sostenibili. Succede e ci insegna, o almeno ci dovrebbe insegnare, a servirci dei miti e dei valori ad essi connessi con giudiziosa elasticità. Ma adesso cosa dobbiamo pensare di quell'eroico ragazzino? Sulle vetrine di un negozio di Firenze sta scritto in bei caratteri da noi è già e puntini, puntini, puntini. Come a dire che lasciando designare al cliente in tutta libertà all'epoca per lui più felice, lì vi si trovino in vendita tutti quegli oggetti che a quell'epoca si accompagnano. Un negozio dunque dei cosiddetti articoli da regalo, che con tutte le mie difficoltà a gioire di che sia il mercato produca, non ho la più pallida idea del perché, in quanto tali, in quanto cioè fatti da qualcuno solo e soltanto solo perché siano regalati, vabbè, non ho la più pallida idea del perché debbano far parte di una classe a sé stante, ma di fronte al da noi è già puntini puntini, mi son detto che si tratta in fin dei conti di un'intelligente soluzione, che tuttavia avrebbe potuto averci anche un'alternativa. Infatti, mentre le già allude ad un qualcosa in cui si sta entrando, c'è la possibilità di alludere invece a qualcosa da cui si sta uscendo anche con le ancora. Da noi è ancora puntini, puntini, puntini. L'una le già con tutte le sue promesse da mantenersi, l'altra con tutte le sue certezze di cui poter continuare a godere. Se mi dico che è già domenica o che è già Natale o che è ancora domenica o che è ancora Natale, in effetti designo cose ben diverse, dall'attesa alla prosecuzione di ciò che è già arrivato. Il che mostra in tutta la sua storica perfidia l'astuzia del negoziante, la duplice astuzia. Da un lato, infatti, siamo soliti attribuire il valore maggiore all'attesa rispetto all'evento medesimo, dal quale, quando c'è nella sua attualità, è spesso foriero di disillusione e delle frustrazioni conseguenti. È la stessa logica che ha fatto dire a qualcuno che il corteggiamento è molto meglio della sua soddisfazione positiva. Dall'altro, è anche vero che si compra prima e quasi mai durante. I negozi mirano a vendere e la gente compra in vista delle feste, quando si accumula mentalmente la gioia che sarà, e non più quando in queste feste c'è già dentro, quando ormai si ha capito che alle porte un ritorno alla normalità, senza che dello straordinario ne sia poi valsa la pena.